E da Vincent Gallo con il suo cat tap, con tanto anche di chitarrismo finale, ci siamo lanciati nel mondo di Richard Bone, un vero outsider, una figura assolutamente minore, ma non per questo insomma meno geniale di altri personaggi che magari sono diventati anche famosi facendo musiche molto affine anche a quelle di Richard Bone. Se ricordiamo ad esempio Errol Budd, molto vicino a certe umoralità, forse Budd è stato più ignano nel senso di Brian Eno, nel senso quindi di creare ambient sonic, forse più ambient music, più di facile impatto, o forse Richard Bone è semplicemente uno di quei personaggi che per molti versi stiamo trattando questa sera, noir, un personaggio che è vissuto dentro gli anfratti sperimentali di una certa America refrattaria sia verso il potere costituito ma anche verso i poteri costituiti legati anche a Major e anche a fama. Se pensiamo a tutto veramente il lavoro underground, all'etica underground che c'è dentro gran parte di questi lavori, che poi paradossalmente magari hanno portato anche personaggi come Bone e come altri che hanno girato in quel periodo, potremmo anche citare una parte dei Devo che è iniziato nel underground più profondo, poi si è dato una sorta di musica commerciale, ma nel senso vero del termine, cioè musiche che probabilmente tra qualche anno verranno considerate library, legate a situazioni tanto pubblicitarie quanto legate ad eventi, a mostre, a sonorizzazioni di vario tipo, da tipo installative a discorsi invece più filmici. Però insomma tutto quel se vogliamo quel mondo parallelo di una visione cinematografica attraverso appunto tutto il documentarismo e paratale, chiamiamolo tale così, invece appunto tutto il mondo installativo, artistico, parartistico, parafigurativo, insomma potremmo anche definirlo in questa maniera, traslitterando così saluto anche il compagno di viaggio Eliseo Scarpa, che insomma mi sfotteva insomma sul incartamento linguistico con la traslitterazione, non è così serio, non è di comune uso, non è che lo uso appunto tutti i giorni, seppure magari per questioni legate insomma a studi dovrei anche conoscerlo piuttosto bene, però tant'è, insomma che precarietà e faccende varie non bellissime insomma ci portano anche lontano magari dai nostri interessi di fondo sostanziali, forse anche così come può essere forse per Richard Bone, che tra la fine degli anni 70 e primi anni 80 è stato anche piuttosto prolifico, poi si è diradata sempre di più una discografia che è più legata appunto a così eventualità sonore, seppur insomma dei dischi sono stati fatti, magari ci torneremo su e magari chi l'ha detto potrebbe anche essere insomma molto anche vicino il riascolto insomma del materiale di Richard Bone. E abbiamo trattato l'America noir un accenno inizio di trasmissione lo facevo appunto anche all'Europa, il contributo europeo e alle umoralità nere c'è stato, è stato anche piuttosto profondo, se non insomma diffuso e anche sentito forse rispetto chiaramente agli americani, dove il noir insomma è sempre stato così una d'altra faccia forse della stessa medaglia degli Stati Uniti, sempre appunto tra questo volto santo e puritano, quindi ipocrita, poi invece quest'altra parte scura, personaggi prima citavamo classici insomma dell'iconografia americana, del simbolismo americano, che possono essere quelli di Elvis, come quelli di Marilyn. C'è sempre questo doppio aspetto tra appunto questa quasi santità puritana che viene appunto dai coloni, quindi storicamente insomma data dalla grande emigrazione nella nuova terra, e invece quell'aspetto invece sporco, quell'aspetto decisamente nero di un'America insomma sempre insomma dai limiti, probabilmente limiti insomma che tante volte non vengono visti in una facciata insomma piuttosto eclatante, ma poi in realtà insomma neanche tanto a scavare si rintracciano in quasi tutte le opere americane. E parlando invece d'Europa, che invece di goticità, di visioni nere insomma conosce insomma a livello secolare, sicuramente dentro quel genere, del genere che stiamo trattando questa sera, del noir, dobbiamo annoverare una formazione insomma cara, 451 frammenti sonori, quindi cara anche al compagno di viaggio Eliseo Scarpa, l'essere sfottente insomma di prima, e come non citare Clock di VA, e come non inserire insomma dalla loro rilettura a noir di un classico, traslitterato, ma che nella traslitterazione ne fa percorso assolutamente originale, unico, musicalità che vanno a intrecciare tanto un bop americano quanto un'umoralità veramente presa dalla wave industrial, da dove appunto provenivano Clock di VA. Sentiremo appunto da un vecchio pezzo dedicato appunto ai film noir, sempre da questo disco decisamente bello che stasera stiamo trattando in maniera piuttosto approfondita, e poi invece ci andremo a sentire il progetto Clock di VA invece con un'ultima uscita, che poi in realtà non è così ultima. Comunque per il momento rimaniamo sui Clock di VA classici, ma mica tanto, poi se non per sonorità forse. We'll be right back. are going to catch that night flight over the sea. Yeah. entrati dentro il mondo, ci siamo addentrati dentro l'oscurità. Da sempre di Newton affascinato dal noir, dichiaratamente sempre vicino al jazz, tanto devisiano quanto legato appunto a ombrosità e a brumosità che provengono tanto da certo art bop, come da certe sperimentazioni appunto jazzistiche molto molto scure. Appunto il Davis degli anni 70 è sempre molto interessato, il grande di Newton con il suo progetto Clock DVA, ma non solo con quello, anche con progettualità che ha portato avanti fino al 96, poi in realtà da 96 con un progetto tra l'altro con Andrew McKenzie degli Alfred Trio non si è fatto più sentire, quasi un ventennio che di Newton così si è oscurato, finché qualche mese fa è uscito questo Post Sign dei Clock DVA. Post Sign perché di fatto riprende il materiale uscito dopo Sign, disco dell'ultimo ufficiale del 1993 appunto di Clock DVA, della storica formazione assolutamente eccezionale, assolutamente seminale per quanto riguarda sperimentazioni industrial, post-industrial e anche tutto quell'immaginario incredibilmente defagrante che fu Buried Dreams, uno dei grandi capolavori dell'elettronica, senza paura di essere smentito, anzi insomma cercate tra siti e riviste che hanno dedicato a questo immenso lavoro elettronico dell'89, sicuramente vi andrete insomma andrete a impattare un mondo cyberpunk che veniva veramente compiuto in maniera assolutamente geniale da parte di Eddie Newton e dei suoi Clock DVA, Buried Dreams, disco fondamentale in questo senso. Noi però ci siamo andati a prendere appunto da film noir il contributo europeo, quindi European Style, la parte appunto di Clock DVA, tornando quindi a 1984, e poi appunto abbiamo dedicato un piccolo frangente di questo Post Sign, appunto ultimo disco dopo 20 anni di Clock DVA, più che altro è una compilazione, ma come dire, per farsi risentire. Sono tornati tra l'altro in tour, hanno anche attraversato Bologna, non so sinceramente come è andato il concerto, ma credo insomma, conoscendo la maestria di Newton and Company, penso che sarà andato bene. Poi vabbè, magari in questo senso fateci sapere se in effetti insomma ha retto il concerto, il nome, il grande nome di Clock DVA, e probabilmente insomma dovremmo ascoltarci anche qualcosa di nuovo, probabilmente uscirà anche qualcosa di Clock DVA assolutamente recente, quindi anche abbandonando insomma quello che è stato tutto il percorso di Post Sign sintetizzato in questo bel CD DVD, anche con un immaginario di fatto filmico che anche esso ha sempre interessato di Newton. Ricordiamo le sperimentazioni con Antigroup sulle onde alfa, sia a livello sonoro ma anche tutte le immagini psichiatriche utilizzate nei video appunto di Antigroup, vere allucinazioni con anche deturnamenti di quelli che sono esperimenti scientifici, una sorta di invenzione, reinvenzione di scienza autonoma, forse potremmo considerarla tale, quella di Newton, in questo senso come un altro pazzoide come Andrew McKenzie, anche lui inventore e parascienziato, potremmo definirlo tale. E se con Clock DVA abbiamo trovato le ombrosità di quella Inghilterra post-industrial e poi di quella cyberpunk e perché no anche quella di questi ultimi giorni con Post Sign, tornando indietro nei profondi anni 80 nella Germania, forse di un Herzog o forse di un Fassbinder, così in odore di noir, che cinema che ha anche attraversato il tedesco, forse il miglior cinema anche di Fassbinder, permettetemi insomma questa piccola divagazione personale sul, appunto, un cinema che comunque è fortemente estetizzato, che però appunto negli anni 80, nei frangenti noir di Fassbinder, sicuramente si fa più solido e meno estetico, seppure insomma sono soggetto chiaramente a critiche rispetto a questa divagazione appunto cinematografica su comunque il grande regista tedesco. E Der Plan da quella Germania della Neue Deutsche Welle è piena anch'essa di frangenze di metallurgie. Ricordiamo che dall'epoca uscirono formazioni come Struzende Neubauten, Sprunghaus del Volken, Milizia, varie faccende che hanno attraversato le sperimentazioni anche industrial e para-industrial. Der Plan hanno dato poi vita a varie progettualità, ma prendendo il progetto originale dentro questo film noir, una lettura trasfigurata anch'essa del noir che ci danno Der Plan. Poi andremo a sentire oscure formazioni come Aiton e Utilisation de Vie Port, per poi concludere, andare verso la fine di 451 con un personaggio assai contraddittorio, quindi di per sé oscuro, ma ancora non vi dico chi è. Per il momento appunto Der Plan, Aiton e Utilisation de Vie Port. We'll be right back. E io vi abbandono su queste note. Dicevo che avremmo concluso con un personaggio controverso. Abbiamo ascoltato Der Plan, tedeschissimi nella loro Deutsche Welle, umbrantile, se non addirittura proprio nera per molti aspetti. The High Tones, che in realtà è un side project di personaggi vagamente più famosi, tra virgolette, veramente tante anche virgolette, ovvero Vankai e Ignit, che abbiamo sentito prima appunto con una citazione direttamente da Casablanca, appunto dentro la parte più che altro dedicata agli americani, seppur Vankai e Ignit, anche se hanno avuto insomma delle filiazioni anche con appunto formazioni americane, di fatto sono rimaste nel loro Belgio. Tra l'altro hanno anche avuto collaborazioni con Pseudocode, ricordando insomma il vaso di Pandora, la prima trasmissione qua appunto a Radio Città Fujiko, un rinizio insomma di 451. Dopo abbiamo ascoltato Utilisation de Vieux Port, che assolutamente e formazione sconosciutissima, soltanto uno split in cassetta oltre alla partecipazione a questo splendido lavoro film noir, e con la loro parte chiaramente dentro i contributi europei. E Muslim Rose, personaggio assolutamente contraddittorio, vicino a certe musiche industrial, si è inventato poi una musica etnica in industriale, e si potrebbe veramente dire tanto di Muslim Rose, e lavori su lavori, e una posizione poi netta che ha fatto discutere anche parecchio, ovvero quello di schierarsi con Hezbollah e con i Muslim e Mujahideen, quindi con la radicalità islamica. Percorso assolutamente personale quello di Brian Jones, appunto conosciuto più come Muslim House, che porta comunque a livello poetico sicuramente lontano anche da certe sonorità del primissimo periodo, forse, che lo faceva venire venire in questo senso da quella scena industrial che comunque per molti versi si rifaceva anche a una sorta di neoprimitivismo, un primitivismo di nuova sensibilità, quindi insomma di matrice anche avanguardistica. E poi spostandosi appunto sia come posizione politica e poi anche fisicamente, prima della morte prematura nel 1999, proprio nei paesi islamici, musicalmente dando proprio anche un supporto di fatto a quelle guerriglie, a quella posizione insomma politica, senza adesso entrare tanto in merito alla questione perché ci porterebbe molto lontano. Di fatto le musiche di Muslim Rose sono decisamente affascinanti in questo suo cercare, in questo suo spostarsi rispetto appunto alla sua terra natia, appunto l'Inghilterra. E concludiamo appunto con questo comunque grande sperimentatore, che se ne voglio dire insomma sulle poi posizioni che ha preso, e comunque di musica ne ha trattata, ne ha sperimentata e ha fatto anche cose decisamente importanti. Non è un caso che tra Vatican Shadow, Silent Servant e personaggi insomma dell'ultimo ondato, o più o meno ultima, c'è un riecheggiamento anche molto forte, proprio l'eticità con tanto insomma di memoria e di sperimentazione industria proprio a Muslim Rose. Ancora qualche secondo appunto di Muslim Rose, vi lascio poi appunto e vi rimando alla prossima trasmissione. Ciao da Max Macchia, da 451, e vi rimando al blog appunto per ascoltare la trasmissione 451 frammenti sonori.noblogs.org. Ciao, alla prossima, fate i bravi.